Benvenuti a Dedicato, mercoledì 18 marzo 2026. Lo staff di Dedicato vi ricorda che domenica e lunedì 22 e 23 marzo si va a votare per il referendum. No! Salve mascotte, benvenuta in studio, qui con noi, mi fa molto piacere. E sto mangiando come al solito. Certo, perché a quest'ora la mascotte mangia. Yummy. Ma scusi mascotte, noi adesso mandiamo un po' di brani musicali, facciamo una puntata. No! Sì, ho capito, va bene, però facciamo una puntata. No. Mascotte, no. Mi faccia dire. Mascotte, manda un brano musicale? No! Abbiamo ascoltato No di Mina. Salve mascotte, qualcosa da dire? No. Ok, vabbè, ho capito mascotte, il messaggio è abbastanza chiaro già dopo 5 minuti di trasmissione. Che cosa vuole dire lei oggi? Avete mai provato a suonare la batteria con le bacchette cinesi? Io no. Ci sta provando, non riesco a capire la mascotte oggi ha non qualche funziona. Problema. No. Vabbè mascotte, se andiamo avanti così mando un altro brano. Vabbè, mi sa che manderò un altro brano. E ieri ho fatto un sogno, e c'eri dentro anche te. Leggevi piccoli brividi, e bevevi un caffè con me. Non riuscivamo a dormire, ci siamo messi a ridere della paura di morire, della voglia di partire, della gioia di vivere. Ti leggevo la mano, e la imparavo a memoria. E se ho fortuna ti giuro che un giorno ti porto nei libri di storia. E me l'ha detto il pakistano, da cui ho comprato le rose. Capo, ricordati che la felicità sta dentro alle piccole cose. Oh. Yeah, yeah, yeah. E stai nata e resti qua, perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Yeah, yeah, yeah. I pugni in faccia che mi dai ti conservo nell'anima, accanto a tutti ti voglio bene. Oh. Ieri mi sono svegliato, erano circa le tre, quando il telefono non ha squillato, io l'ho capito che eri te. Hai detto impara a vivere da solo, ma solo ci sapevo stare. La mia solitudine era un mondo magico che io ti volevo mostrare. Che bello quando balli con quegli occhi gelidi, mi piace se ti muovi come fanno i lemuri. Sono l'ultimo dei tuoi pensieri, tu mi eviti, ma gli ultimi saranno i primi come Steven Bradbury. Tu sei la sfida finale di Takashi Scasso, io ci provo a capirti e non capisco un caso. Guarda che notte c'è la luna piena e ti citiamo solo perché mi fai pena. Yeah, yeah, yeah, yeah. Destinata e resti qua, perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Yeah, yeah, yeah. I pugni in faccia che mi dai ti conservo nell'anima, accanto a tutti ti voglio bene. Perché le tele di te rigotelli a notte fonda sui canali di provincia. Sempre il giorno ricomincia, ma ti giuro non lo so. Ti giuro non lo so. No. Yeah, yeah, yeah, yeah. E stati nata e resti qua, perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Yeah, yeah, yeah, yeah. I pugni in faccia che mi dai ti conservo nell'anima, accanto a tutti ti voglio bene. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tu sei la mia felicità, un po' come il festival bar che da bambino guardavo al mare. Yeah, yeah, yeah, yeah. E spettinata resti qua, perché la più grande libertà è quella che non ti lascia andare via. No, no, no, dei pinguini tattici nucleari, quindi direi che il messaggio è chiaro da ogni punto di vista, ma procediamo con la nostra puntata perché vedo che qui in studio è arrivata un'altra fanciulla, ma sempre dello staff di Dedicato devo dire, però anche amica della mascotte. Ragazzi, tutto bene? No! Ma scusate, perché no? Perché no? Ah, vabbè, ho capito, ma non c'è bisogno di urlare. No! Vabbè, hanno urlato, ok. Potete dire qualcos'altro oltre a no? No! Quindi io dovrei andare a trovare anche il modo di capire tutto e magari anche perdonare, visto che l'amore non lo puoi guidare, mi dispiace. No. Dopo quello che ho passato col tuo ben servito ti dovrei lasciare e magari dare il mio benestare perché lei ti possa prendere e tenere senza colpa. No. Dare il mio benestare perché lei ti possa prendere e tenere senza colpa. No. No, perché lo chiedi a me. No, lo chiedo io a te. No, rimani e soffri invece tu. senza mai parlare, senza mai gridartelo. No. Ma vedrai che con il tempo saprò dirti tanto che a volere andare sarò io col cuore e lo saprò fare senza neanche voglia di voltarmi indietro più. No. Ornella Vanoni, no. Beh, dobbiamo ricordare assolutamente quella grande donna che è stata Ornella Vanoni e ci ha lasciato veramente con il cuore in mano, ecco, però insomma, quello che è stato e ha potuto fare tantissimo della sua arte, della sua musica, quindi la salutiamo e andiamo avanti con la nostra puntata e con le nostre fanciulle in studio. A me interessava avere un vostro... No! Un vostro parere. No! Un parere. No! Ah, vabbè, ok, mi sembra già no, questo no, un no, parere. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sistema Down, Toxicity, uno dei pezzi più acclamati dallo staff dei giovani di Dedicato. Perché? Perché tanti di loro sono batteristi e si sono convinti che saper suonare questo pezzo vuol dire essere dei batteristi finiti, pronti ad andare sul palco. In realtà questa cosa non è assolutamente vera, ci sono milioni di cose da imparare in più di questa canzone, ma loro non si capisce perché se ne sono convinti. Chiaramente ha una difficoltà musicale alta, però non vuol dire aver finito di studiare la batteria arrivare a suonare questa canzone. Quindi ragazzi, dateci dentro, avete da studiare ancora un bel po'. Comunque questo pezzo direi che in questa puntata ci stava, li abbiamo fatti contenti e così l'hanno riascoltato gioiosamente, tamburellando i ritmi di questa canzone. Ok. Eri no! Ah! Volete andare... No! Volete fare qualcosa di diverso? No! Volete andare al mare? No! Volete andare in montagna? No! Volete andare in gita? No! Volete fare... No! Creazione? No! Non vogliono fare neanche ricreazione. E apri gli occhi tanto, non puoi sognare. Il tuo passato è chi non c'è più. Peccato che il balcone non ha più fiori. Se non nei miei capelli li metterei. E sarei bello come lei. E un po' la scorderei. E invece piano dico no. No, oh. Stasera io dovrei prostituirmi, uscire con un'altra te, ballare come un orso e divertirmi, invece li ho lasciati tutti là in pizzeria, non ho più 20 anni senza te, e camminando dico no, no. Quando tornerai non ti spogliare, perché anche un uomo solo può dir di no. E fuori della porta, vestita d'aria, a piangere e pregare io ti lascerò. Essere bella non ti dà diritto di far male, col sale in bocca ti dirò no, no, no, no. Apertamente ai pacchi di riviste che hai lasciato tu, al modo di guardare un altro e non dir niente. Sarò anche maschilista ma non ne posso più. Ho mani forti e dolce anch'io, ma del mio sesso non ne faccio un dio. Vorrei vederti e dirti no. No, no, no, no, no, no, no. Gianni Bella, no! Un titolo originale per la puntata di oggi, direi, che si va a unire al coro di no che c'è stato. Quindi oggi scelta musicale particolare, ragazzi. Mina, Ornella Vanoni, Gianni Bella, i System of a Down e poi chissà cosa ci aspetta. Ma ragazze... No! è sempre no la parola. No, no, no, no, no, no, no, ok, grazie. No, no, no, no. È arrivata una canzone per il fine settimana. Non son pezzi da campione, ma è la musica che manca. Facciamo ancora in tempo. No, la radio chiede un pezzo pop. Senti qua che voglia di domenica. C'è un piano da suonare e un posto per ballare. Stavolta non puoi dire no, dire no, no. Ci han detto no, non ci servono no, due come noi con il lento no. In questo mondo di stream non siamo mainstream, facciamo dischi. No, no, no, no. Dicevi no ma poi ritorna. Suonate a cui hanno detto di no, no, no. Facciamo ancora il tempo, no. La radio chiede un pezzo rock. Senti qua, c'è una chitarra elettrica che ti fa innamorare, non te lo puoi scordare. Stavolta non puoi dire no. Ci han detto no, non ci servono due come noi con un lento no. In questo mondo di stream non siamo mainstream, non siamo tristi. Dicevi no ma poi ritornano come le sere d'estate, come canzoni suonate a cui hanno detto di servono due come noi con un lento no. In questo mondo di stream non siamo mainstream, ma poi la fischi. Dicevi no ma poi ritornano come le sere d'estate, come canzoni suonate a cui hanno detto di i Jalis. No, no, no. Beh, loro insomma di no ne sanno qualcosa. Non so quanti no abbiano contato alle selezioni del Festival di Sanremo. Gli è sempre stato detto di no dopo che hanno vinto qualche annetto fa ormai. Ogni volta che hanno provato a partecipare, i direttori artistici del Festival hanno sempre detto no ai Jalis. Quindi loro insomma la parola no ce l'hanno proprio nel sangue, come dire. E abbiamo concluso questa puntata con l'ultimo dei pezzi, appunto, come avevamo detto prima, dopo Mina, Ornella Vanoni, Gianni Bella, i System of a Down, adesso i Jalis. Salutiamo le nostre fanciulle presenti in studio. No, no! Che vedo rimanete monotematiche su questa parola, quindi credo che il messaggio sia chiaro per tutti quanti. Noi vi salutiamo. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, a playboy finiti e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce l'ha fatta.